Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lascia il fidanzato, lui dopo 3 giorni la uccide e poi si toglie la vita. Il nuovo femminicidio vicino a Pordenone, un altro caso a Taranto. Altra tegola per il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, indagato anche per l'alluvione del 2014, per disastro colposo. Ballottaggi, iniziano i confronti, questa sera Sala e Parisi, a Roma intanto ci si torna a dividere sulle Olimpiadi. L'Authority per le telecomunicazioni ha messo il tetto sul roaming internazionale. Il surplus non potrà superare i 5 centesimi al minuto e i 2 centesimi per gli SMS. Un giudice a Milano ha accordato la protezione umanitaria ad un immigrato del Gambia perché è povero. Ed è polemica su una circolare della ASL di Sassari, dimissioni più veloci dei pazienti per accogliere i migranti in arrivo. Le passerelle dell'artista Cristo sul lago di Iseo nel mirino di Ispettorato del Lavoro e ASL. Arrivano le multe. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono il 349-238-6666 per i vostri SMS, per i messaggi su WhatsApp. Abbiamo anche il canale Telegram, quello con il quale vi diamo le anticipazioni tutti i giorni, telegram.me/effettogiorno, e poi la nostra mappa del nostro quotidiano giro per l'Italia che facciamo a partire dalla seconda parte della trasmissione, che in realtà iniziamo già adesso in questa occasione per raccontarvi una storia che arriva da Pordenone, un altro caso di femminicidio. Abbiamo con noi Antonio Baci, che è capo servizio di Pordenone del Messaggero Veneto. Antonio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per il collegamento. Si tratta di una ex guardia giurata, era stato lasciato dalla fidanzata e dopo 3 giorni ha deciso di entrare in casa. Mi sembra che la ricostruzione al momento sia questa, di sparare alla donna e poi togliersi la vita, no? È un agguato che nasce chiaro nella testa di Manuel Venier, 36 anni, ex guardia giurata, che poi trova lavoro invece in un supermercato. Anche lei, Michela Baldo, più giovane, 29 anni, è una diplomata all'Istituto Stringer di Udine, le si erano conosciuti proprio lavorando anche lei in un supermercato in questo tipo di giro da colleghi. Nasce un amore tra questi due giovani, tutti e due con la lettera M, no? Michela Baldo e Manuel Venier, questo MM che piano piano comincia a invadere i social con le foto di una coppia felice, un amore che però a un certo punto purtroppo deraglia e aumenta la depressione di lui, aumenta il disagio. Lei gli vuole molto bene, lei cerca sempre di recuperarlo, di cercare di capire, anche di fare un percorso comune per salvare questo tipo di rapporto, ma alla fine qualcosa non va finché dopo 3 anni e mezzo di relazione, proprio 3 giorni fa, prende la decisione, lei decide di finire questo rapporto. E lui tiene le chiavi di casa, in sostanza, e dopo 3 giorni decide di andare ad ucciderla. Esatto, lui tiene le chiavi, le porta in tasca e ti parlavo di agguato proprio perché lui arriva con la macchina a casa di lei, sa quando lei finisce il turno del supermercato intorno alle 21, nasconde la macchina dietro un muretto dalla parte opposta da quella da cui lei arriva, quindi sicuro di non essere visto, e entra in casa. Lei gira le chiavi nella toppa, entra in casa, passa nel salotto, appoggia la borsa della spesa in cucina, non si accorge della presenza di lui in camera e in salotto fino a quando sente un rumore, lei si gira, lui ha un cuscino in mano e con questo cuscino nel divano attutisce la detonazione, il primo sparo con cui la attinge, poi avanzando le spara altre 3 volte prima di togliersi la vita con un colpo alla tempia. Rimangono questi 2 corpi per terra in cucina, sì. Tanta tristezza in un posto che veramente si è svegliato con una notizia orribile. Senti Antonio, tra l'altro lui aveva creato anche un gruppo su WhatsApp nel quale diceva, c'era scritto e si intitolava, si chiamava Addio. È stato creato questo gruppo e di cui lui faceva parte, che sia stato lui a crearlo non abbiamo ancora certezza, di certo ci faceva parte e i suoi messaggi erano messaggi di sconforto che sono visibili anche sul suo profilo Facebook, tanto che la madre poi gli dice guarda che si chiude una porta ma nella vita se ne aprono altre, cerca in qualche modo di tirarlo su. Il dubbio adesso diventa, ma un ex guardia giurata con questo tipo anche di depressione che trova un riscontro sui social può detenere e continuare a detenere una pistola. Ecco, e qua si apre un altro filone. Un altro filone oltre a quello dell'uccisione della ex fidanzata. Io ti ringrazio, grazie a Antonio Bacci, caposervizio di Pordenone del Messaggero Veneto, per questa cronaca puntuale. E c'è un altro caso purtroppo a Taranto, dove un uomo di 50 anni, Luigi Alfarano, ha ucciso prima sua moglie Federica De Luca, 30 anni, e poi il figlio di 4, per poi togliersi la vita a Taranto. A quanto si è appreso, questo sarebbe stato il giorno nel quale i due avrebbero dovuto firmare la separazione. E un'altra notizia di cronaca di pochi istanti fa, di cronaca nera, che approfondiremo più avanti: un extracomunitario ha coltellato un carabiniere che ha reagito sparandogli con la pistola di ordinanza ed uccidendolo. È successo nella tendopoli di San Ferdinando, che nel periodo invernale ospita migliaia di extracomunitari impegnati nella raccolta delle arance nella piana di Gioia Tauro. Come vi dicevamo, stiamo raccogliendo informazioni, lo stanno facendo i nostri colleghi sul territorio, e ci torneremo più avanti nel corso della trasmissione. Adesso occupiamoci di politica, che però si mescola in questo caso con la cronaca giudiziaria e della nuova tegola per il sindaco di Parma. Per Federico Pizzarotti arriva una nuova tegola giudiziaria. Il sindaco 5 Stelle di Parma è infatti indagato anche per l'alluvione del torrente Baganza avvenuta il 13 ottobre 2014. L'ipotesi di reato contestata al primo cittadino in quanto massima autorità della protezione civile del comune è quella di disastro colposo. L'inchiesta, partita dopo l'esondazione che allagò la zona sud della città facendo danni per milioni di euro, si era concentrata sulle presunte inadempienze di tutto il sistema di allerta della protezione civile. Con Pizzarotti sono indagati anche il comandante della Polizia Municipale, due dirigenti della protezione civile regionale e provinciale e l'ex responsabile del servizio tecnico di bacino. Secondo la Gazzetta di Parma, il sindaco al momento non avrebbe ricevuto alcun avviso di garanzia perché finora la procura non ha svolto atti che richiedano la presenza di un difensore. Nelle scorse settimane la mancata comunicazione della sua iscrizione nel registro degli indagati per le nomine al Teatro Regio era costata al primo cittadino la sospensione dal Movimento 5 Stelle, una vicenda ancora aperta per la quale Pizzarotti rischia anche l'espulsione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al punto sulle amministrative. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Le ricostruzioni non mancano su quanto sta succedendo al Largo del Nazareno in queste ore dopo le amministrative. Simone, a quanto pare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi sarebbe furioso per l'alleanza con Denis Verdini, che ha causato un distacco dell'elettorato Dem, soprattutto quello di sinistra, in queste comunali. Il partito della nazione non è mai esistito, avrebbe detto il Premier, o meglio, è un partito d'aula. E Renzi avrebbe accusato il sottosegretario Lotti dell'alleanza, che ha detto non ha fatto grandi frutti. Renzi sarebbe quindi pensando a commissariare il partito a Napoli, ma anche a scaricare l'alleato a Roma, almeno fino ai ballottaggi, dove il Premier deve riconquistare i voti di sinistra a Roma, Torino e soprattutto Milano. Si parla anche di futuri assetti interni e sul ruolo dei due vice segretari Guerini e Serracchiani, anche però che vengono però notizie smentite dal Nazareno. I bersaniani sottolineano che le loro critiche erano giuste, ma per Roberto Speranza adesso c'è una consapevolezza diversa. Da parte dei 5 Stelle, Carla Ruocco smentisce un patto con la Lega e sul futuro del Movimento parla di Luigi Di Maio come perfetto candidato Premier, ma non sarà calato dall'alto. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Dalla situazione politica passiamo alla situazione degli italiani, ed è quella che riguarda la situazione sanitaria degli italiani. Erano 9 milioni nel 2012, sono diventati 11 milioni quelli che hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche. Emerge da una ricerca Censis RBM presentata oggi in occasione del Welfare Day. Abbiamo in diretta Katie Vaccaro, che è responsabile Welfare e Area Salute del Censis. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, ci dà qualche dettaglio in più su questa ricerca? Abbiamo riconfermato alcuni trend generali che riscontriamo purtroppo da qualche anno. Le manovre di razionalizzazione economica che hanno avuto come bersaglio consistente la sanità hanno finito per avere effetti, diciamo, sociali non indifferenti. Addirittura manovre, direi, con effetto quasi regressivo, nel senso che è dovuta aumentare la spesa privata dei cittadini italiani per la salute, perché sempre meno il servizio sanitario è capace di dare risposte in tempi accettabili e con costi compatibili con le necessità di molti italiani. Sostanzialmente funziona così, ci sono liste d'attesa che di fatto neutralizzano l'accesso universalistico al sistema, chi se lo può permettere accede al privato sostanzialmente, forte del fatto anche che le tariffe del privato ormai, almeno per alcune cose, naturalmente quando parliamo di rinuncia parliamo soprattutto di rinuncia a prestazioni di tipo diagnostico, di tipo specialistico, certo. Sono diciamo prestazioni che hanno dei prezzi competitivi rispetto ai ticket, certo. A quel punto fai passo la lista d'attesa e pago, però se devo mettere mano al portafoglio, le dimensioni dei portafogli sono diverse, quindi c'è qualcuno che non se lo può permettere ed è costretto a rinunciare. Brevemente, avete identificato delle forti differenze territoriali, perché sappiamo che la sanità in certe regioni d'Italia funziona e in certe regioni no? Purtroppo la sensazione generale è che si paga di più per avere di meno, ma naturalmente questa dimensione di peggioramento, questa sensazione di peggioramento della qualità del proprio servizio sanitario regionale è diversamente articolata tra nord, centro e sud. Se pensiamo al sud, più della metà del campione è convinto che la sanità sia ampiamente peggiorata negli ultimi anni, quasi la metà al centro, al nord i residenti soprattutto del nord-est la pensano in questo modo in una quota molto minore, il 35,4%. Quindi una differenziazione che è un altro elemento di forte iniquità del sistema. Nel giudizio sui servizi, a prescindere diciamo dalla dinamica di peggioramento, gli insoddisfatti al sud sono il 68%, al centro sono il 56%, al nord sono il 40%, quindi insomma c'è una differenza molto sentita rispetto alla capacità del sistema di rispondere a queste esigenze. A queste esigenze, quindi molto marcata la differenza tra nord e sud e poi chissà tra regione e regione. Grazie comunque a Katie Vaccaro, prego, responsabile welfare e area salute del Censis. Altre notizie che arrivano stamattina sul fronte più strettamente economico sono 817.000 le dichiarazioni di esenzione dal canone RAI arrivate all'Agenzia delle Entrate. Lo ha fatto sapere la stessa direttrice Rossella Orlandi in un'audizione. Per inserirlo in bolletta e incrociare i dati, ha chiarito, abbiamo fatto i salti mortali. E siamo all'Authority per le telecomunicazioni che interviene sul roaming. Dipende dai punti di vista, ma per molte persone che viaggiano all'estero potrebbe essere la fine di un incubo, quello di vedersi azzerato il credito sulla propria SIM, anche per pochi messaggi o una semplice telefonata. La Gcom ha infatti deciso di tagliare la bolletta del telefono all'estero. Quando sono fuori per vacanza o per lavoro, secondo l'autorità garante per le comunicazioni, gli italiani hanno dunque diritto ad una tariffa protetta. Pagheranno un piccolo surplus, ma la spesa aggiuntiva non potrà superare alcuni tetti, che sono di 5 centesimi al minuto per le chiamate, di 2 centesimi per singolo SMS e di 5 per ogni megabyte di navigazione internet. Una decisione che segue di pochi giorni le diffide nei confronti di TIM e Wind colpevoli di imporre tariffe a pacchetto contrarie ai regolamenti europei. E adesso aderire ad un'offerta diversa rispetto a questa tariffa sicura sarà una scelta volontaria del singolo utente. Insomma, un paracadute per le persone che, soprattutto in questi mesi estivi, lasciano l'Italia per un altro paese dell'Unione Europea, si intende, perché la novità vale solo per i 28 paesi UE. Alessandra Schepi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il caso Regeni, la tutor di Cambridge decide di non rispondere agli inquirenti italiani. Bocche cucite a Cambridge su Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso lo scorso gennaio in Egitto. Professori e tutor, a cominciare da Maha Abdelraham, supervisore sulla tesi di dottorato di Regeni sui sindacati egiziani, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero di Roma, Sergio Colaiocco, e degli investigatori che indagano sulla morte del giovane friulano. Gli inquirenti italiani in trasferta a Cambridge volevano appurare il significato di alcune mail scambiate da Giulio con i suoi professori. I docenti si sono riservati di inviare relazioni scritte agli investigatori italiani. Gli inquirenti hanno comunque ascoltato amici e colleghi di Regeni. I genitori di Giulio, intanto, sono stati invitati a partecipare il 15 giugno a una seduta della Sottocommissione diritti umani del Parlamento europeo. E al Cairo resta in carcere il consulente della famiglia Regeni, Ahmed Abdallah al-Sheikh, arrestato lo scorso aprile per attività sovversive e partecipazione a manifestazione non autorizzata. Il Tribunale della Capitale egiziana ha infatti deciso di prolungare di 45 giorni la custodia cautelare per al-Sheikh, presidente del Consiglio di Amministrazione della Commissione egiziana per i diritti e le libertà. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci spostiamo negli Stati Uniti. Grazie a voi, abbiamo raggiunto un milestone. La prima volta... Insomma, grazie a voi ce l'abbiamo fatta, più o meno abbiamo raggiunto questa pietra miliare. Così Hillary Clinton, che dopo New Jersey, New Mexico, Montana, South Dakota, sta vincendo anche in California, questo secondo anche le ultime proiezioni arrivate negli ultimi minuti, mentre Bernie Sanders segue a distanza e vince appunto in North Dakota. A New York Hillary Clinton ha tenuto un discorso nel quale, annunciando la sua storica nomination, perché è la prima per una donna, ha ringraziato ovviamente i suoi sostenitori. E dall'altra parte, come sapete, si schienerà per i repubblicani Donald Trump nelle presidenziali americane. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione inizieremo come sempre il nostro giro per l'Italia, che però oggi, come vi abbiamo detto, è già iniziato in realtà in apertura quando siamo andati a Pordenone, e vi racconteremo due storie che parlano di immigrazione, due vicende che stanno facendo molto discutere. La prima è quella di un giudice che a Milano ha deciso di accordare la protezione umanitaria e la protezione internazionale a un immigrato del Gambia perché è povero, creando sostanzialmente un precedente, per quanto i precedenti nel nostro sistema giuridico non è che abbiano molto valore. E poi una vicenda che sta circolando molto in internet in queste ore, una direttiva, una circolare della ASL di Sassari che in occasione dell'arrivo di un certo numero di migranti a Porto Torres ha detto: sbrigatevi a dimettere gli altri pazienti, che abbiamo della gente, degli immigrati che arrivano da ricoverare. Sta facendo molto discutere, ce la faremo spiegare dal direttore sanitario appunto dell'azienda ospedaliera di Sassari. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di due nuovi casi di femminicidio, uno a Pordenone e un altro caso a Taranto. In entrambi i casi gli uomini che hanno ucciso le loro donne e poi si sono tolti la vita. Abbiamo parlato dell'altra tegola per il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, indagato anche per l'alluvione. Abbiamo parlato di ballottaggi, abbiamo parlato delle decisioni dell'autority per le telecomunicazioni sul roaming internazionale, e sono buone notizie per i consumatori. Adesso ci occupiamo di immigrazione, lo facciamo parlando di una sentenza che sta facendo molto discutere, sta sollevando un po' di polverone politico. È una decisione di un giudice civile di Milano, il giudice si chiama Federico Salmeri, tra l'altro lo abbiamo contattato, è stato molto cortese, ci ha anche dato l'ordinanza, ma ha detto: insomma, io parlo con le sentenze e come dire, commento in questo modo, quindi ha deciso di non intervenire in diretta con noi. Che cosa ha fatto? Ha riconosciuto ad un ragazzo di 24 anni del Gambia la protezione umanitaria. Perché? Perché è povero, sulla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia. Ovviamente c'è grande preoccupazione, soprattutto da alcune parti politiche, ma non solamente da quelle, perché potrebbe costituire un precedente piuttosto grosso. Manuela Mauro è l'avvocato di questo ragazzo del Gambia ed è con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Ce la spiega un po' questa decisione del giudice? Prego. Grazie. Allora, guardi, io ho tutelato questo ragazzo del Gambia di 22 anni, del 1992, e lui, dopo il diniego della commissione di Milano, si è rivolto appunto al mio studio per redigere il ricorso. Il giudice Salmeri, io ritengo onore a questo giudice, nel senso che ha applicato, io direi, la verità di quelli che sono degli obblighi costituzionali e internazionali, partendo, attenzione, da cosa? Da una sentenza della Corte di Cassazione. Una sentenza della Corte di Cassazione del 2014, per cui molto recente, della Suprema Corte, che nello stabilire, nell'individuale, nel dire che cos'era la protezione, che cos'è la protezione umanitaria, ha statuito che la protezione appunto umanitaria è una misura residuale rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, e la condizione per questo rilascio umanitario è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità che deve essere protetta alla luce di obblighi costituzionali e internazionali. Sì. Il giudice, da questa sentenza, cercato di vedere quali sono gli obblighi costituzionali e internazionali che gravano sullo Stato italiano, per cui è partito dall'articolo 32 della Costituzione, dove appunto la Repubblica Italiana riconosce e tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, sì, è partito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che all'articolo 25 individua e riconosce ad ogni individuo un diritto alla salute, il diritto al benessere per sé e per la sua famiglia, ha citato il patto internazionale firmato a New York nel 66, ratificato dall'Italia nel 77, dove tutti gli stati, parti di questo patto, hanno riconosciuto il diritto a ogni individuo a un livello di vita adeguato. Mm. Tutti gli stati di questo patto riconoscono il diritto fondamentale di ogni individuo, mi scusi, alla libertà dalla fame, e devono adottare e cooperare internazionalmente per adottare tutte queste misure. Sì, allora, avvocato Mauro, il punto mi è chiarissimo a questo punto e penso che sia chiaro anche agli ascoltatori. Sì. Però lei ha idea dell'impatto potenziale di una decisione di questo genere? Attenzione, allora io ho letto un po' le varie polemiche politiche che sono state fatte su questa sentenza. Cioè l'idea, mi scusi, sì. L'idea che sta passando, no, è questa, che chiunque sia povero può, come dire, rivolgersi ad un avvocato e veder riconosciuta la protezione umanitaria e quindi di fatto il permesso di restare in Italia. No, io non sono d'accordo, cioè è un'interpretazione che secondo me non comporta assolutamente questo rischio di un riconoscimento cosiddetto di massa di questa protezione umanitaria. Non è così, innanzitutto la sentenza, l'ordinanza, mi scusi, se è letta nello specifico, il giudice ha individuato, deve essere innanzitutto valutato caso per caso, il giudice, il dottor Salmeri, ha valutato la regione addirittura di provenienza del ragazzo, per cui individuata come regione allo stato, cioè povera, assolutamente povera, ma poi attenzione, cioè il problema è questo, che il riconoscimento di un diritto, cioè qua stiamo parlando di riconoscimento di un diritto fondamentale, che l'Italia ha l'obbligo, sia costituzionalmente che internazionalmente ha l'obbligo di riconoscere, ma è anche vero che il riconoscimento di questo diritto fondamentale non può dipendere da quanti soggetti questo diritto viene riconosciuto. Cioè non è che è un diritto universale a un numero chiuso, deve essere valutato caso per caso, ma poi io ritengo che le polemiche in questo momento siano assolutamente inesistenti, insussistenti, ma anche perché da che mondo è mondo sono anni che i poveri vanno verso i paesi ricchi. Sì, diciamo, questo è più un ragionamento geopolitico, se vogliamo. A me interessava il ragionamento in punto di diritto proprio, insomma, no? Ma in punto di diritto il giudice ha applicato quelli che sono gli obblighi costituzionali e internazionali. Quindi lei non vede, avvocato, io immagino che lei, come dire, dato che questa persona si è rivolta a lei, lei faccia spesso questo mestiere, no? Si occupi spesso di immigrazione e di immigrati. Quello che voglio capire è che lei non vede, come dire, un effetto a cascata, per così dire, di una decisione di questo genere. Assolutamente, perché ogni caso di ogni singolo migrante va valutato e viene valutato. Io lavoro spesso, sono al tribunale, sono del Foro di Sondrio, ma spesso sono al tribunale di Milano, e i giudici competenti assolutamente valutano in maniera corretta, esaustiva e completa caso per caso, e questo assolutamente non è un rischio, come si pensa, come è stato detto, ho letto i vari commenti, di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria, assolutamente. Da di fatto che io, quello che emerge da questa ordinanza, certamente che il problema è un problema internazionale, cioè che deve essere valutato a livello internazionale e comunitario, come l'Italia sta chiedendo, credo da mesi, sta chiedendo un intervento in questo senso. Però il giudice si è limitato, e ripeto, onore a questo giudice, ad applicare gli obblighi costituzionali e internazionali sono previsti, che noi abbiamo firmato. Il punto è chiaro, avvocato, le devo fare una domanda, diciamo, chiamiamola semipersonale, nel senso che molti ascoltatori ce lo stanno chiedendo. Dicono, se questo ragazzo era così povero, come paga l'avvocato? Non lo so, immagino ci siano delle associazioni che fanno questo, o lo fa volontariamente. No, i ragazzi sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Patrocinio a spese dello Stato, in questo caso. No. Benissimo. Sì. Ottimo, solamente questo, giusto per chiarire per gli ascoltatori che ce lo chiedevano. La ringrazio, Emanuela Mauro, avvocato del ragazzo del Gambia, al quale è stata riconosciuta la protezione umanitaria. Noi continuiamo a parlare di immigrazione situazione, perché c'è un altro caso controverso che sta dominando un po' le pagine dei giornali in queste ore. Nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo in Sardegna e andiamo a Sassari, dove quello che fa discutere è una circolare, mi immagino che si chiami così, della ASL di Sassari, nella quale si chiede ai direttori delle unità operative di ricovero di accelerare le procedure di dimissione dei pazienti per far posto a dei migranti in arrivo a Porto Torres. Abbiamo Antonella Virdis, che è direttore sanitario della AOU di Sassari. Poi, se ci scioglie anche l'acronimo, Virdis ci fa un favore, perché conosciamo ASL, USL, ma AOU sinceramente non la conosco. Ce lo scioglie intanto? Certo. Com'è? AOU significa Azienda Ospedaliera Universitaria. Ok, perfetto, azienda ospedaliera universitaria. Esatto. Allora, ce la spiega questa circolare, che cos'è, cosa vuol dire? Sì, allora, in previsione, appunto, o meglio, una volta avvertiti dell'arrivo dei migranti su Porto Torres e quindi della possibilità anche che qualcuno dei migranti, insomma, potesse aver bisogno di cure sanitarie che potessero richiedere il ricovero, ci si è preoccupati di garantire, insomma, la possibilità che l'ospedale potesse accoglierli. Voglio chiarire però in maniera abbastanza forte, soprattutto per chi ci ascolta ed è cittadino comune, voglio dire che cosa significa accelerare le procedure di ricovero. Intanto nessuno ovviamente può essere dimesso prima che sia in grado di essere dimesso, quindi questo è un principio base. L'accelerazione, termine che forse è un pochino infelice, ma la lingua italiana è molto ricca e si è usato quello piuttosto che magari un termine, come dire, che si prestasse meno anche alle interpretazioni a volte un po' fuorvianti, come è stato in questo caso. Però accelerazione significava soprattutto dal punto di vista burocratico, non dal punto di vista clinico. Ci mancherebbe che un paziente viene dimesso prima per far posto ad un altro. Cioè non è che uno mi scusi per chiarire, non è che uno sta ancora male, è ricoverato e voi dite al direttore dell'ospedale lo cacci fuori anche se sta male perché dobbiamo far posto, no? Ma ci mancherebbe, tanto che le dico, ed è come dire doloroso un pochino dirlo, che non solo nessun paziente viene dimesso prima che sia in condizioni cliniche, e qui apro una parentesi, le decisioni cliniche sulla dimissione le prende solo il medico responsabile di quel paziente. Nessun direttore sanitario aziendale, come sono io, nessun direttore di ospedale, come colui che ha scritto la circolare, nessun assessore, potrei esagerare e dire nessun ministro, può decidere della dimissione di un paziente, ma la dimissione di un paziente rimane ad esclusivo carico del medico che ce l'ha in cura, quindi il cittadino, ma anche colui che cittadino non è, nel senso che qualcuno, come nel caso specifico di cui parliamo, migranti, non viene dimesso se non c'è una decisione clinica. Questo è fondamentale. Ok, perfetto. Quindi è solo un'accelerazione burocratica, per così dire. No, ci sono delle pratiche, delle pratiche da chiudere, chiudetele in fretta. Esatto. Perché quello che è stato detto dal direttore del presidio ospedaliero è stato: le pratiche burocratiche cercate di chiuderle in fretta. Poi lo ha sintetizzato in una parola, ma essendo una circolare interna, chi ha ricevuto quella circolare, quindi ha letto la parola, sapeva bene la traduzione esatta di quella parola, cioè la velocizzazione delle pratiche burocratiche. Che non significa farle non bene o farle tralasciando qualcosa, vanno fatte. Però, devo dire, e qui lo faccio anche, colgo l'occasione, ma ringrazio anche gli operatori, perché si sono prestati a essere più presenti, anche coloro che potevano non esserlo perché non dovevano essere in turno, ad essere comunque presenti per garantire che comunque le cose funzionassero. Non si è fatta, come mai si è fatta, ma questo voglio dire, qualunque medico che fa il medico sa che a partire da Ippocrate in poi viene visto il malato, non se il malato è italiano, ghanese, sì, ma questo, guardi, questo non ce lo deve, questo non ce lo deve nemmeno dire. Io la ringrazio, grazie Antonella Virdis, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dunque AOU in acronimo, se lo trovate. E questo, grazie per essere stata con noi, le auguro buona giornata. Come avete sentito, più una questione burocratica che altro. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi oggi la giornata è così, continuiamo a parlare di immigrazione. discussione perché c'è stato, ve l'abbiamo raccontato in apertura, a Reggio Calabria un carabiniere aggredito da un immigrato che si trova in una tendopoli, che viene realizzata per il periodo della raccolta delle arance, ha sparato, ha ucciso questo immigrato. Abbiamo il collega che ha raccolto un po' di informazioni, Francesco Straticò, appunto dalla Calabria, ci racconterà un po' come sono andate le cose. Intanto la pausa e la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ha lasciato il fidanzato, lui dopo tre giorni l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Il nuovo femminicidio è avvenuto vicino a Pordenone. Un altro caso a Taranto: un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 4 anni nel giorno nel quale dovevano firmare la separazione. Arriva un'altra tegola per il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, è indagato anche per l'alluvione del 2014 per disastro colposo. Ballottaggio, iniziano i confronti stasera Sala e Parisi. A Roma intanto ci si torna a dividere sulle Olimpiadi. L'autorità per le telecomunicazioni mette il tetto sul roaming internazionale, il surplus non potrà superare i 5 centesimi al minuto. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, andiamo a parlare di quello che è successo a Reggio Calabria. La cronaca ci racconta di un carabiniere che ha sparato e ha ucciso un extracomunitario che l'aveva aggredito. Francesco Straticò per gli aggiornamenti. Buongiorno Francesco. Buongiorno a te, la situazione è naturalmente ancora molto confusa, sicuramente in questo momento tra Rosanno e San Ferdinando è tutto bloccato, i carabinieri hanno praticamente cinto d'assedio tutta la zona per cercare di capire anche loro quello che in effetti è successo. Intanto vi dico che c'è una riunione nella Procura di Palmi tra i vertici dei carabinieri di Reggio Calabria e il procuratore Sferlazza e altri membri appunto della Procura di Palmi per chiarire quanto è accaduto. Quello che si sa è che in tarda mattinata una normalissima pattuglia dei carabinieri che transitava dalle parti di uno dei due campi che sorgono tra San Ferdinando e Rosarno ha notato un tafferuglio tra due o più immigrati. A quanto pare uno di questi immigrati aveva rubato qualcosa ad un altro e quindi si stava litigando. I due carabinieri sono scesi dall'auto, ovviamente erano armati, e si sono avvicinati ai due o tre litiganti, quelli che stavano infatti contendendosi il maltotto, ecco. Uno di questi immigrati avrebbe estratto a sua volta una lama, un oggetto da taglio, non si sa ancora bene, e avrebbe colpito al volto uno dei due militari. Il militare, prima di cadere a terra, ha estratto la pistola e ha sparato un colpo. Non si capisce bene se sia stata un'azione volontaria oppure se è stata una reazione proprio istintiva. Fatto sta che l'immigrato è stato colpito in maniera mortale, è stato ferito mortalmente, per lui non c'è stato niente da fare. Il carabiniere invece è stato portato subito in ospedale. Le sue condizioni, per quello che si sa, non sono gravi. Ripeto, a questo punto resta questa patata bollente ai vertici dell'arma di Reggio Calabria di chiarire definitivamente quanto è accaduto. Certo, quella sì, è una zona complicata, gli immigrati sono tantissimi, i tafferugli sono all'ordine del giorno, quindi una cosa come questa alla fine doveva accadere prima o poi. Le condizioni in cui vivono gli immigrati sono davvero disperate. Televisioni, radio, giornali se ne sono occupate più volte, quindi sì, spesso in quell'area periodo, tra l'altro Francesco, in quell'area spesso soggetti a caporalato, no? Assolutamente. Sì, sono sfruttati, vivono in condizioni anche abbastanza misere, nella sporcizia, soprattutto in questo periodo quando ormai è terminata la raccolta degli agrumi, loro vivono di espediente, ecco, non hanno il denaro neanche per spostarsi in altre parti d'Italia o per cercare una vita dignitosa, vengono aiutati dalle associazioni di volontariato locale, da altre associazioni come Libera oppure alcune associazioni religiose. Le loro condizioni sono sicuramente disperate, questo è un problema appunto che andrà prima o poi risolto in maniera definitiva, perché altrimenti accadranno cose come quella che è accaduta oggi. Ti ringrazio, grazie a Francesco Straticò dalla Calabria per questi aggiornamenti. Il nostro giro per l'Italia ci porta anche nel centro Italia, in provincia di Terni, dove ci sono stati 7 arresti per assenteismo, riguardano dipendenti del comune di Stroncone. La vicenda è la solita, la truffa del cartellino. Il colonnello Giovanni Capasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Terni, al microfono di Adriana Fracchia. Tutto parte da un esposto denuncia fatto direttamente dal primo cittadino, quindi il sindaco di Stroncone ha presentato verso la fine di ottobre un esposto denuncia in procura e successivamente la procura di Terni ci ha delegato a fare gli opportuni accertamenti che si sono sviluppati con attività tecnica, quindi con telecamere e altre attività anche tradizionali, quindi come osservazione, controllo e pedinamento. Dopo aver raccolto le prime fonti di prova sono stati visionati e acquisiti documentazione presso il comune e dopo aver appunto avuto dei riscontri oggettivi è stato messo su un quadro probatorio che ha consentito prima alla procura e poi successivamente al GIP di emettere l'ordinanza che stamattina è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Terni. La cosa che più ci ha lasciato anche sorpresi in negativo è che i soggetti interessati hanno continuato a tenere queste condotte a spregio di qualsiasi regola e diritto. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ma prima una piccola nota nei nostri titoli. In apertura abbiamo parlato della vicenda delle passerelle dell'artista Cristo sul lago di Iseo, che erano nel mirino di Ispettorato del Lavoro e ASL. Sono arrivate delle multe, abbiamo provato a raggiungere qualcuno, non ci siamo riusciti, magari ci torniamo nei prossimi giorni, perché è una vicenda che vogliamo continuare a seguire. Oh, sul lago di Iseo è previsto l'arrivo di 1 milione di persone in 2 settimane, non stiamo parlando esattamente della costa romagnola come capacità di accoglienza, quindi ci torneremo sicuramente. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.